KS Super G. KS Super G. Eia, Sam 61 brano originale rap dalla Sardegna, sveglia, voi pensate agli scazzi, noi prendiamo gli spazi necessari, siamo animali urbani sulle strumentali, patti chiari, soldati alleati, costrette di mani, costretti a stare fuori dagli schemi, con coglioni pieni non sopporto i pagliacci, scemi o gaggi, supporto i selvaggi, oggi spingono l'underground e domani ancora, ancora underground. Andiamo a 100 all'ora ed è blackout, pronto per il round, salgo sopra il ring, non mi ritiro e non faccio il figo in giro con i bling bling. Io non mi dico king, da solo che calpesto, ho imparato a stare a questo mondo ed è disonesto. 61 brano, tutto ci rimbalza, rimbalza, rimbalza. Dal club alla piazza, tutto ci rimbalza, rimbalza, rimbalza. Tutta la gente è falsa, a noi ci rimbalza, rimbalza, rimbalza. Dimmi chi ti credi, la principessa sul pisello, prima fa la troia, dopo sogno un castello, un tratto da pennello, sfumature da colo pastello, rimando, rimando bimbi a giocare con il girello, lo controllo da fuori classe, dribbling di classe, palleggio con il baricentro in asse, rap come fede per rincoglionire le masse, mani in alto e teste basse, parliamo in slang come le cosche, da ragazzo non andavo alle giostre, girava attorno al rap come la merda alle mosche, forse tra meriti e demeriti, saldo conti e recupero crediti, l'asfalto mi ha fatto da letto per molte notti, la vita mi ha sestato i suoi colpi, ora ne sono i miei morti, mi torna in sogno, primo piano sui loro volti, siamo la brutta realtà, è una serpe all'interno della tua società, all'ingresso c'è attrito, benvenuto nel mio mondo sceriffo, brano e Sam, welcome to the schifo. 61 brano, tutto ci rimbalza, rimbalza, rimbalza. Dal club alla piazza, tutto ci rimbalza, rimbalza, rimbalza. Tutta la gente è falsa, a noi ci rimbalza, rimbalza, rimbalza. 61 brano, tutto ci rimbalza, rimbalza, rimbalza. Dal club alla piazza, tutto ci rimbalza, rimbalza, rimbalza. Tutta la gente è falsa, a noi ci rimbalza, rimbalza, rimbalza.